due amanti oltre il mondo, i migliori quadri siamo noi, quelli ancora da dipingere, da inchiodare nel cielo, da appendere a colori in bianco e nero, storie ancora da vivere, da mangiarci anche l'osso, io con te proprio adesso. Due amanti oltre il mondo, i migliori libri siamo noi, quelli ancora da scrivere, da sfogliare, respirare, quelli che sanno leggere il cuore, siamo cuscini di piuma amore, in un letto, in cucina, in pigiama, ovunque siamo, tu sangue, io vena, i migliori film siamo noi, noi l'inizio, la fine, gli eroi, ogni giorno per noi è festa, una pellicola di baci, una giostra, un giradischi che suona sati, amore bello se lo trovi, nostro amore due fiumi in un mare, nostro amore due soli in un sole. La migliore vita è un momento che ci propulsa oltre il tempo, soavi l'uno nell'altro, come due amanti oltre il mondo. Tesoro, i migliori film siamo noi, noi l'inizio, la fine, gli eroi, ogni giorno per noi è festa, una pellicola di baci, una giostra, un giradischi che suona santi, amore bello se non trovi, nostro amore due fiumi in un mare, nostro amore due soli in un sole, due amanti oltre il mondo, i migliori giorni siamo noi, siamo l'aria che illumina il mondo, il fuoco in terra, un altopiano profondo, una schiera di uccelli nel cielo, una bambina che sogna il suo uomo, un abbraccio, dare e l'avere, una vita che segue le onde del mare. La migliore vita è un momento che ci propulsa oltre il tempo, soavi l'uno nell'altro, come due amanti oltre il mondo.